Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Visto che, non ve l'ho detto ieri, ma ve lo dico adesso, ma molti l'avranno capito, questa è l'ultima settimana di Melog, prima della fantastica pausa estiva, vorrei dare un occhio a quelle che sono le forme più eccelse di passare questi mesi d'estate. Ho lungamente e vigliaccamente irriso le meste vacanze di fagottari, di escursionisti fuori porta, di pendolari delle vie marine, ma oggi vorrei dare un senso di profonda e insostituibile dignità a coloro che riescono a dare un risvolto culturale profondo e sentito a questa pausa che normalmente le persone non dotate di senso poetico, di profondità culturale, di capacità di elaborazione alla loro contemporaneità, dedicano solamente ad abbronzarsi, a ingozzarsi di cibi prelibati o di bassa fattura, in terribili e degradanti avventure sentimental sessuali. In realtà esiste una fetta importante di italiani che approfitta della pausa estiva per coltivarsi culturalmente, per approfondire le loro ragioni attingendo direttamente alle fonti più profonde del sapere, della conoscenza, della capacità di elaborazione alta della realtà. Oggi a loro dedico la puntata, a coloro che l'estate non vanno al mare, non vanno ai monti, non vanno al ristorante pizzeria, non mangiano le cozze, non mangiano gli spaghetti con le vongole, ma si nutrono soltanto di cibi macrobiotici, di naturalmente la base è essere comunque vegetariani, ma non lo dico con senso di derisione, lo dico con profonda ed invidiata partecipazione. E assistono seduti su delle seggioline nelle artistiche piazze dei più ridenti centri di questo paese a conferenze, presentazioni, reading, letture, declamazioni di poesie, esposizioni di pensieri. Andare al mare e trovare una libreria. Succede anche questo sull'ultima spiaggia di Capalbio. E poi rassegne letterarie tutte le sere nel borgo medievale con personaggi come Walter Veltroni o Federico Moccia. Come nasce, dunque, la fama di piccola Atene di questo comune? Tutta una serie di intellettuali hanno incominciato a prendere casa a Capalbio, essenzialmente su nel paese. Quindi casa su al paese ce l'hanno persone come Asor Rosa, Marramao. Capalbio Libri è nata sulle persone. Cioè, quindi il fatto di avere sul territorio d'estate tante persone che si occupano di libri, autori, giornalisti, sicuramente favorisce l'organizzazione di eventi come questi. Esiste una fantastica maniera di poter dare un senso alle proprie vacanze, e per direi tutti quelli che in ascolto in questo momento ambiscono a questa eccelsa maniera di dare un senso alle loro ferie estive, o perlomeno invidiano coloro che lo fanno, o perlomeno come mesta e silente transumanza seguono questi personaggi appena citati da questo servizio dedicato a Capalbio, che è l'Atene d'Italia, uno dei luoghi dove maggiormente è possibile incontrare grandi scrittori, letterati, poeti, frequentatori di talk show, persone che si vedono normalmente in televisione, ma nella televisione quella seria, quella alta, non certo a fare il Grande Fratello o a fare quei terribili programmi con le donnine scollacciate. Vanno e parlano di libri, parlano di letteratura, parlano di quello che è il profondo, serio, insanabile dilemma che ci attanaglia: dove andrà a finire la cultura? 800240024. Le ultime pagine di una storia che io amo molto, che racconto spesso, ma la amo molto. Che sono proprio le ultime pagine, sono il racconto di un tramonto. Questo anche per suggerire all'organizzazione una variante più compatibile col mio metabolismo, i tramonti sulle Dolomiti. Ma non solo per questo, perché questa storia ha tra le sue cose geniali questo finale, che è vissuto dai personaggi esattamente nella luce che se ne va della giornata, quindi una fine di giornata, e anzi proprio l'arrivo del buio è una cosa che crea proprio la storia, li costringe, come vedrete, a qualcosa di decisivo nella loro vita. Ma mentre la luce se ne va, nelle loro parole. Questo per farvi un esempio che molte volte il personaggio, il letterato, il poeta, il centellinatore di sensi alti si reca sul luogo e si contamina con la natura. Questo era un fantastico e indimenticabile Baricco sulle Dolomiti, sul far del tramonto naturalmente, Baricco abbarbicato su una roccia, batte i denti dal freddo, coperto con un pile, malcela il disagio dato dalla contaminazione climatica, dalla ruvidità e la barbara durezza delle rocce sotto il suo sedere, non abituato naturalmente a stare in salotti dove è molto più morbido, declama il fantastico incedere del tramonto. Beh, di fronte a spettacoli così indimenticabili, volete mettere le persone che vanno con la macchina fotografica magari di fronte ai locali della Costa Smeralda soltanto per fotografare l'ultima starlette o l'ultima scosciata protagonista di un qualsiasi pettegolezzo arrivato a conoscenza attraverso le grandi testate che contaminano oggi i sensi più bassi della nostra civilizzazione. 800240024, raccontatemi i vostri sforzi per dare un segno diverso alla vostra estate. Raccontatemi come è possibile anche per voi passare un'estate che non sia soltanto dedicata alle banali cure del proprio corpo, della propria vanagloria, della propria considerazione personale. Perché andiamo in vacanza? Andiamo in vacanza per rilassarci, ma invece che rilassarsi non sarebbe meglio dedicarsi alla profondità del proprio spirito? Legata appunto alla riscoperta a cui Monio ha dato anche proprio un linguaggio, un modo di tradurre l'umorismo yiddish in un italiano che praticamente ti sei inventato te. Però insomma, per farla breve, volevo che tu facesti una breve autobiografia di Monio Vadia, proprio dalla nascita ai nostri giorni in due minuti. Io cercherò questa sintesi che non è mia, ma è del grande attore e clown cecoslovacco Bolek Polifk. Abbiamo collaborato per un breve periodo e lui sentiva parlare di me, qualcuno gli diceva: Moni non è nato in Italia, è venuto da un'altra parte, però le informazioni erano sempre sbocconcellate. Allora lui, vincendo... Anche Monio Vadia, indimenticabile protagonista di tanti appuntamenti culturali, esprime sé il suo sentire, la sua sensibilità, la sua nostalgia. E vedo e immagino dall'altra parte, quando si presentano questi personaggi, i tipici frequentatori dei momenti culturali. Di solito sono villeggianti che sul far del tardo pomeriggio, di solito i momenti clou, gli appuntamenti culturali, le discussioni, le presentazioni dei libri si fanno sul tardo pomeriggio, che quell'ora vuota in cui la gente torna dalla spiaggia, torna dalla passeggiata lungo il camminamento, si appresta alla scrofanata serale, e quindi è un momento in cui può metterci l'aperitivo, può metterci la passeggiata sul corso, può metterci la vista delle vetrine e l'appuntamento culturale. Si siedono e stanno silenziosi, impassibili, ascoltano tutto, ore e ore e ore di lettura, declamazioni di poesia, approfondimenti, descrizione della quintessenza della supercazzola, e stanno lì tranquilli. Perché? Perché tradire un attimo di noia, un attimo di abbiocco, un attimo di sbadiglio sarebbe tradire il fatto che sia lì soltanto come dei parvenu, come dei frequentatori soltanto stagionali della cultura. Ogni tanto qualche umarel si abbiocca, lo si vede spalancare le fauci verso il cielo, sul far del tramonto naturalmente, tramonto sulle Dolomiti con Baricco che racconta il tramonto sulle Dolomiti, e la moglie vicino gli dà di gomito. Perché? Perché gli fa fare una pessima figura. Marco, buongiorno. Buongiorno, io la stavo ascoltando perché insomma molto incuriosito, perché sono una descrizione che ho davanti agli occhi, che vedo quasi tutti i weekend, perché vado a Cavalbio da credo ormai più di 30 anni, da quando ero ragazzino, quando si va a spiaggia c'erano ancora le zanzare. E quindi ho visto tutta l'evoluzione del, diciamo così, del quali insetti oggi frequentano l'ultima spiaggia? Ma diciamo che c'è tutto uno zoo abbastanza composito. Ma perché uno va all'ultima spiaggia che il mare è pessimo? Solo questo vorrei domandare. No, io vado alla Dogana. Normalmente lei però è della zona, perché si va all'ultima spiaggia? No, all'ultima spiaggia si va perché appunto, come si dice a Roma, si va a spiaggiare. Si vede gente. Certo, cioè il carissimo Martelli, che è un ricordo ormai da, come dire, da antiquariato, che però fa sempre piacere vedere, soprattutto per me che ormai ho 50, quindi mi ricordo i bei tempi delle streghe a Portercole, insomma i bei tempi andati, fino, diciamo, agli ultimi diciamo gli ultimi personaggi, che possono essere i Rutelli, insomma quelli, diciamo, un pochino più giovani. Beh, oddio, se parliamo sempre di antiquariato. Sì, diciamo che tipo modernariato. Quindi si è fermato lì, si è fermato, diciamo, in quell'area, nell'area, diciamo, centro peninsulare, l'Atene dei tempi moderni. Sì, diciamo, si ferma la Prima Repubblica, più o meno. Esattamente, con questo clima un po' decadente, si incontra l'oltranzista di ultrasinistra, che compra sempre l'unità, l'edicola di Borgo Carige, si incontra appunto il residuo socialista che ancora gode dei vantaggi dell'epoca. E cosa fanno? Com'è la giornata culturale di persone che hanno dedicato tutta la vita alla cultura, all'approfondimento dello spirito? Ma li vedi un po' mezzo addormentati sul lettino. Perché hanno fatto tardi per leggere, studiare e seguire le conferenze. Ovviamente, poi hanno anche dovuto sopportare il peso di numerosi giornali dall'edicola fino alla spiaggia, e quindi questo immagino che li abbia provati. Ecco, la mazzetta dei giornali viene portata sulla spiaggia. Assolutamente, non vorrà mica arrivare in spiaggia a mani vuote. Certo. E poi ci si ritrova tutti allegramente davanti a una simpatica pappardella al cinghiale, che poi, perlomeno per me personalmente, lo ammetto, è la ragione principe che mi ha sempre portato. Ah, io pensavo che fossero vegetariani, che rinunciassero. Poi la selvaggina, questa cosa barbara, anche molto di destra, di uccidere un cinghiale. Il cinghiale dovrebbe correre nell'era del cinghiale bianco, felice, libero, con i suoi cinghialini. Come credo che su questo forse siamo abbastanza simili, per lei le posso assicurare che la fettuccina al cinghiale, o la pappardella, questo dipende dai gusti. Ma anche la salsiccia al cinghiale non è male, l'insaccato al cinghiale. È una delle cose più... cioè, per me è un'esperienza metafisica, glielo dico proprio sinceramente. Io quando mi metto davanti a, diciamo, un ristorante proprio in cima al paese... Anche costruirsi quei meravigliosi reggi fucile fatte con le zanne da cinghiale non sono male. Messi nella tavernetta, devo dire che è un ornamento... Per noi può aiutare la nostra giornata a ispirarci naturalmente verso quello di cui stiamo dicendo. Va bene, fermiamoci un secondo con lei, Marco, perché abbiamo Marianna Aprile. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Giornalista di oggi, anche lei dedita, penso, nei suoi soggiorni estivi all'approfondimento culturale. Dove andrai quest'estate, Marianna, in vacanza? No, io non sono mai dedita all'approfondimento culturale durante i miei soggiorni estivi, però quest'anno eccezionalmente andrò a Capalbio. Vai a Capalbio? Come? Dalle Olgettine, per cui più volte sei intervenuta nella nostra trasmissione, passi a Capalbio? Sì, però volevo... è una catarsi la tua, un desiderio di palingenesi. No, è una testimonianza, un'altra Capalbio è possibile, perché si può andare in vacanza da quelle parti senza imbattersi negli slippini azzurri di Rutelli, nelle mazzette di giornali che poi rimangono intonse fino a sera ma vengono portate in spiaggia, come diceva giustamente l'ascoltatore di prima, solo perché fa fino. Anche perché, Marianna, l'aria salmastra e la sabbia trasformano una mazzetta in un mattoncino praticamente inusabile. La sera porti a casa... Il giornale in spiaggia non è sfogliabile. È impossibile. Anche perché adesso fa molto più figo sfogliare l'iPad. Gli sfogliabili per iPad. Certo. Veramente sono un cascame del passato. Pensa bello, il touchscreen con la sabbia è la morte sua, veramente. Sì, poi l'iPad notoriamente soffre il caldo, quindi non è indicato. Ma l'importante è averlo in mano, dai, non l'uso che se ne fa. Il masto è quello, no, però è interessante l'analisi, la testimonianza dell'ascoltatore di prima, perché effettivamente c'è tutta un'estetica, no, del frequentatore dell'ultima spiaggia, ma potremmo citare tantissimi altri, in altre località balneari in cui si mischiano bagnanti in sovrappeso con elementi dell'intelligenza o sedicente tale, perché per tutte queste manifestazioni culturali a bordo, cioè, sulla battigia, hanno tutto un codice, cioè non so, ti sarà capitato di essere presente anche solo come... Beh, io ci ho anche mantenuto la famiglia in certi periodi, esatto, facendo queste cose, quindi non è che parlo di cose che conosco. Che come alla Scala si tossisce tutti all'unisono nelle pause di silenzio del relatore, cioè tutte le malattie polmonari vengono fuori nello stesso esatto istante in cui il relatore tace. Le signore hanno tutti questi costumi scicchissimi, ma con non si sa per quale autolesionistico motivo, con cellulite a vista e vene varicose en plein air, cioè tutta la compostezza che uno associerebbe sulla carta a un evento culturale viene drammaticamente fatta naufragare. Perché sai, c'è l'illusione che l'intellettuale sia scevro da questi condizionamenti così di basso conio nel considerare le donne per le loro fattezze fisiche, quindi l'intellettuale prende su tutto, questa è l'illusione. Ma l'intellettuale magari sì, però invece non è così, prende su soltanto sotto i vent'anni e di buona fattezza, l'intellettuale radicale che stiamo descrivendo naturalmente. No, c'è poi anche da dire una cosa, che con il naufragio dei sex symbol tipici, no, dell'estate, il bagnino, cioè l'intellettuale in spiaggia, cioè ha tante possibilità di non tornare da solo a casa, perché comunque è un corpo estraneo e in genere coperto in un ambiente di corpi scoperti e quindi anche esposti a un'analisi più approfondita e non sempre a lieto fine. Guarda, no? Io potrei fare dei nomi, Marianna, ma mi fermo un attimo, ti posso descrivere personaggi molto noti, andare in spiaggia con pantaloni, scarpe, calzini e le loro accompagnatrici titillare di gioia soltanto al pensiero di far loro un pediluvio, che è il massimo, la battigia è il massimo limite dell'immensità oceanica in cui si avventura l'intellettuale, e con religiosa cura togliere quei calzini e vedere quelle unghie scaccolose schifose dell'intellettuale, perché mai si laverà i piedi, quelle scarpe scalcagnate appoggiate sulla sabbia, e queste signore accompagnarlo nella mano, lui con giacca, naturalmente giacca a lino bianco, collalone marrone sul collo, camicia bianca con le ascelle su date, cravatta leggermente allentata, che si avventura un po' così come un cieco vate portato dalle sue psicopompe, così verso il mare. L'ho vista veramente, ma non posso fare il nome. Ma perché il must in questi casi è sembrare un pesce fuor d'acqua. Cioè ci si va tutti gli anni, si va più o meno a fare sempre le stesse cose, a partecipare allo stesso vacuo rito di nobilitazione del tempo libero, ma ci si va sempre con l'aria un po' del, no, del che ci faccio qui. Mi ci hanno chiamato, ci vengo, ma perché la mia missione è portare la cultura anche qui. Allora io devo dire, per informazione, che la maggior parte delle volte l'intellettuale è pagato, perché il festival è organizzato da una proloco, da un'organizzazione, da un ente turismo, da qualcuno che comunque ha interesse a radunare persone, e molte volte le persone si radunano o con il gruppo folk o con la banda cittadina o chiamando l'intellettuale, che è il grande nome, che naturalmente è a cachè, ma è giusto che sia così. Vorrei sentire però Marco, il nostro informatore che ci ha chiamato, l'ascoltatore, vorrei sapere le manifestazioni culturali in particolare nella zona di Capalbio, poi vorrei allargare la rosa ad altre città d'Italia. In ogni paese, in ogni città delle Alpi alle Piramidi c'è una manifestazione culturale. 800240024. Marco. Io ricordo con piacere quella dei corti, che avviene appunto nella piazzetta su del paese. Dove cos'è, una discriminazione rispetto alle caratteristiche degli intellettuali? I corti in che senso? I corti, non mi viene a differenza dei lungometraggi, i cortometraggi. Ah, ecco, di cortometraggi. Cortometraggi dove sì, fa molto figo il festival del corto, perché il corto lo fa chiunque. L'ultima straccia mutande può fare un corto a pochi soldi e presentarlo. E quindi quello è un momento di particolare piacere, perché nel buio insomma uno si può anche serenamente addormentare senza essere visto. Vorrei soltanto così lasciarle una chicca a un ricordo che ho di una serata al ristorante, in questo in particolare a Marina di Capalbio. C'era un vecchio ristorantino che era dentro al bar della stazione, che appunto si chiamava bar della stazione, dove incontrammo il Fu Manca, non so se lo ricorda. Sì, come no, certo, è stato presidente della RAI. Esattamente. Poi aveva fatto una sua società e faceva anche lui, organizzava eventi culturali. Esatto, esattamente. E niente, si lamentò con il ristoratore del conto, e il ristoratore molto toscano gli rispose: signore, qui avete fatto aumentare le case, non riusciamo più a campare, e lei paga il doppio degli altri. E quindi sì, accettarono tutti. Fu una giusta risposta. In effetti la transumanza dei personaggi verso questi incontaminati piccoli borghi di provincia ha fatto levitare il mercato, che sotto Capalbio c'è un'altra Capalbio finta medievale, finta antico, finta rustica. Da lontano sembra uguale, ci si avvicina, si vede che praticamente è fatta di cartongesso, qualcosa del genere. Questo è il risultato della capalbizzazione del nostro immaginario culturale. Il deserto spazia l'occhio colto dal miraggio, stupito dal verde delle rare piogge. Affonda il piede nella sabbia, appesantito da granelli intrusi. Corre il respiro affaticato dai centigradi. Tende bianche macchiano le dune, affiancate sprazzi da acerbi cereali. Deserto di roccia, deserto salato, deserto costiero, deserto ghiacciato. Un deserto deserto, specchio alla luna nelle barcane, o vie del sale per la regina di Saba. Questo è un brano tratto dal Festival della Letteratura di Viaggio. È Flavia Cristalli che legge una sua poesia e le persone l'ascoltano, il religioso silenzio. Stiamo trattando e tracciando questa mattina una possibile mappa del riscatto culturale degli italiani che quest'anno in vacanza, per non sentirsi omologati, per non sentirsi far parte di un vecchio sistema, per non sentirsi complici di un degrado dei costumi, del senso civico, faranno e seguiranno gli eventi culturali del nostro paese. C'è una mappa intensa, una mappa profonda di intellettuali, di poeti, di scrittori, di giornalisti che sono scrittori, di scrittori che sono giornalisti, di cuochi, di personaggi, di volti noti e di volti ignoti che costellano le piazze d'Italia nel fatidico momento della controra, anzi un pochino dopo, nel momento che precede l'aperitivo, potranno deliziarci con delle profondità irraggiungibili con le nostre uniche sole forze. 80024, chiedo segnalazioni da tutta Italia, gli importanti eventi vengono già raccontati da alcuni nostri ascoltatori, leggo su un sms, Gressonei con Davide Riondino, la Versiliana in agosto, però aggiunge l'ascoltatore, dice perché i talebani non intervengono a soccorso. Marco da Pisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Restiamo sempre in Maremma, sembra che la Toscana sia l'unica regione capace di approfondire ed eviscerare il nostro desiderio di cultura. Comunque, racconti. No, è molto semplice. Io passo, come il mio omonimo, è una vita che passo le vacanze in Maremma perché mia madre è di Salamone, quindi è una vita veramente che sono in Maremma. Ed è la cosa incredibile, più che un evento specifico a cui ho partecipato, la cosa veramente incredibile è turbine di intellettuali che in realtà sono loro stessi motivo di nobilitazione del paese e contemporaneamente lo rifuggono in qualche modo, nel senso si presentano a spot in un noto giornalista che ha una casa a Salamone, prende costantemente un appartamento, si manifesta nelle ore tarde del pomeriggio a fare il bagno da solo quando non c'è nessuno, consapevole che sul bordo diciamo del paese c'è sempre qualcuno che lo guarda anche con il binocolo addirittura. Quindi un evento quando X scende pallido, sì, con esatto, il suo asciugamano d'antan, quelle esatto, spugne bianche bucherellate di una volta, esatto, sgraffignate negli alberghetti a tre stelle, e si avvicina con le sue ciabatte antiche, con i suoi pantaloncini con gli zoccoli, è vero, gli zoccoli. Poi come è vestito? Lo descriva. Zoccoli di legno. Normalmente ha una maglietta abbastanza sull'oscuro ma corrosa dalla salsedine, sì, e dei pantaloncini non chiaramente di marca, cioè dei pantaloncini da mercato, quelli da mercatino, questo asciugamano, e scende, perché per scendere in spiaggia c'è una grossa lunga scalinata, scende lentamente questa lunga scalinata, all'inizio ovviamente guarda il panorama dal questa balaustra, scende giù consapevole che non ci sarà più un filo di luce, scenderà giù all'ombra e farà il suo bagno, consapevole che ci sarà sempre qualcuno sulla balaustra che lo guarda, lo osserva stupito dell'atteggiamento. È una cosa stupenda. Ma bellissima. Quando entra in acqua cosa fa? Si bagna e poi esce o fa una nuotata? No, si bagna e poi esce ovviamente, nel senso si bagna, fa un piccolo giro a nuoto, ma sempre con la testa fuori dell'acqua, sì, non immerge mai, la testa nell'acqua, fa un piccolo giro e poi ritorna sopra. È perché deve tenere gli occhiali, come fa? Non può bagnarsi gli occhiali da vista. No, no, gli occhiali si ritoglie in realtà, gli occhiali li toglie, li mette, c'ha il giornale, c'ha il, chiaramente il suo asciugamano. Mi suggerisce Intonti, che frequenta questi luoghi, che l'intellettuale non ha un asciugamano di spugne ma un telo di cotone, che non asciuga nulla naturalmente, però è molto No, è un asciugamano qualsiasi, è colorato, è un asciugamano colorato. Ah, quelli che vendono i marocchini camminando avanti. Esatto. È uno spettacolo stupendo e oltretutto non si manifesta ad agosto, quindi sempre sino a luglio al massimo. Ci ha dato un quadro fantastico della discesa di questo avatar che viene ad adocchiare come si comportano gli umani nelle sue espropriato le sue divine fattezze, ma adesso devo collegarmi con Alessandra Tedesco. Alessandra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alessandra Tedesco, Capita Fagiolo, la tua iniziativa, stiamo dando delle indicazioni per passare un'estate diversa ai nostri ascoltatori, non soltanto pascendosi di cibi trasudanti unto e abbronzandosi al sole, ma dando un senso culturale. Tu hai una proposta seria però. Sì, io ho una proposta seria. Possiamo far diventare i nostri ascoltatori dei giurati del premio Strega, dei giurati virtuali, nel senso che possono andare sul nostro sito www.radio24.it, scegliere chi secondo loro dovrebbe vincere il premio Strega e scrivere una motivazione. Le persone che scriveranno le 5 motivazioni, così, che a nostro parere, secondo la redazione di Radio 24, sono le più interessanti, verranno con me alla finale del premio Strega, il 5 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, quindi potranno conoscere da vicino gli scrittori, potranno vedere come si svolge un premio letterario, potranno insomma fare i giurati virtuali e soprattutto i testimoni di una serata che sia mondana ma anche altamente culturale. Ecco, ti rendi conto che fantastica occasione stiamo fornendo ai nostri ascoltatori? Noi da mezz'ora stiamo descrivendo la possibilità di passare un'estate diversa. Tu in questo momento gli poni sul piatto come appetitoso premio di partecipare al top, al non plus ultra degli avvenimenti culturali, addirittura è la serata più ambita praticamente da tutto il mondo culturale, da chi si occupa di editoria ma anche dal cosiddetto mondo VIPA. Radio 24 avrà il suo tavolo, quindi noi avremo la nostra postazione e poi soprattutto gli ascoltatori, se lo desiderano, possono un po' seguirmi e vedere come si svolge anche il lavoro giornalistico durante un premio letterario. Cioè potranno vedere da vicino tutti i concorrenti, i giurati, Marzullo che presenta il programma per la RAI, tutti. Esattamente, i candidati, lo ricordiamo, Gianrico Carofiglio, Marcello Fois, Lorenzo Ghinelli, Alessandro Piperno, Emanuele Trevi, che sono i 5 finalisti, ma poi veramente c'è, come dire, tutta l'intelligenza romana e non. Potrete toccare da vicino Trevi e Piperno. Senti, dai dei consigli, come dovranno vestirsi i fortunati al premio Strega? Ci si veste in lungo, vero? Allora, c'è una sorta di dress code, come si dice, insomma, nei posti fighi, bisogna vestirsi eleganti. Signore in lungo... Signore in lungo, considera che ci sono molte signore âgées al premio Strega, insomma, perché i 400 amici della domenica, cioè i veri votanti, i veri giudici, hanno anche alcuni una certa età, sì. E si veste sicuramente eleganti. Li tengono, li tengono nel freezer tutto l'anno, li tirano fuori soltanto per quella sera. Esattamente, li tirano fuori per quella sera, si vedono anche delle cose obbrobriose, però diciamo che il nero non è d'obbligo, però insomma è gradito. Un vestito elegante per le donne, i tacchi sicuramente, e per gli uomini sicuramente giacca e cravatta, insomma, ma questo direi che è proprio il mio, insomma, diciamo un bellino bianco per l'uomo è accettabile o è troppo solo per gli autori possono vestire come vogliono. Piperno vestirà di lino bianco, fare quello che vuoi. No, si può mettere anche, che ti devo dire, un saio addosso e andrebbe bene lo stesso, perché insomma gli scrittori sono i veri le vere star della serata, quindi possono fare assolutamente quello che vogliono. Allora, ripetiamo Alessandra, gli ascoltatori sì. Scrivendo sul sito www.radio24.it hanno la lista dei 12 finalisti dello Strega, cliccano su quello che gradiscono di più e scrivono, c'è uno spazietto per scrivere una motivazione. Noi sceglieremo la motivazione motivazione, le cinque motivazioni che ci piacciono di più, e nella puntata del Cacciatore di Libri di sabato sera alle 21 diremo i cinque che hanno vinto e sono fortunati a venire con me, insomma se si ritengono fortunati a venire con l'inviata di Radio 24 alla serata veramente più importante dal punto di vista, appunto, come vi dicevamo prima, culturale e mondana, il 5 luglio a Roma. E quindi Alessandra Tedesco vi porterà mano nella mano cinque persone in giro per il Premio Strega. Immaginate quale fantastica occasione, lo racconterete ai vostri figli, ai vostri nipoti. Io ho iniziato la missione un po' come faccio sempre, ponendo alcuni punti di terrificanti di cui già mi pento, ironia, sulle vacanze culturali, ma in realtà questa è una grande occasione. Grazie Alessandra, e grazie anche a nome dei fortunati che riusciranno a passare la sera sfiorando e lambendo Trevi, Piperno ed altri eccelsi spiriti della nostra epoca. Luigi. Buongiorno Nicoletti. Siamo pronto? Qua. Sì, sì, siamo qua. Ecco, io sono un malato della storia. Io queste ferie me le passerò, prendo su la mia macchina, il mio metal detector, e girerò, diciamo, dal centro Italia in su in cerca della storia, di reperti, di monete, specialmente dell'epoca romana, imperiale. Col metal detector, le va a cercare col metal detector? Sì, mi armerò proprio di tipo una cartucciera alla panciovilla con dentro le mie batterie 9 volt. Sì, ma stia attento che la prendono per un terrorista islamico o qualcosa del genere. No, beh, guardi, io quando mi trovo per le mani, non so, un Vespasiano, un denario, un sesterzo, con la storia che avrà avuto dentro, chi l'avrà avuto, chi l'avrà perso, oppure, non so, un Giano Bifronte in zone dove non dovrebbe esserci. Ma diciamo, si può fare questa attività, è un'attività clandestina? È un po' clandestina. E beh, allora non lo dica, la vengono a cercare a casa quelli della tutela. No, però io faccio una cosa, io dopo quella roba lì la dono ai comuni dove le trovo. Allora le prende e poi le dona, quindi fa un'opera meritoria. Luigi ha mostrato la sua attività. Grazie Luigi. Marcello? Pronto? Eccoci. Buongiorno. Senta, il mio intervento breve, ma senta un po', dottor Nicoletti, ma io di tutti questi intellettuali fasulli... Perché fasulli? Come fasulli? Ah, sì, fasulli, guardi, in Italia gli intellettuali fasulli, secondo me ce ne sono tanti. Ma non è vero assolutamente. Sì, molti si spacciano per tali, basta mettersi le scarpe rotte, l'occhialetto e quant'altro, la storia di questo paese lo dimostra. E poi vorrei... nell'ambito, fare un esempio. Inorridisco, prendo le distanze, no, come fa a dire una cosa del genere? Nella maniera più assoluta. Le dirò di più, io ho partecipato l'anno scorso al Premio Strega, gentilmente invitato da una collega. Come ospite? Ero andato con tanto entusiasmo, il posto è meraviglioso, e beh, le posso garantire che delle 1500 persone che hanno fatto, si sono preoccupate in genere di fare sfoggio di se stesse, la maggior parte di costoro, il 90%, fondamentalmente è stata impegnata per tutta la sera solo per fare la fila per mangiare il cocomero, l'anguria, il formaggio, il salame e quanto di meglio, di quelli che stavano sul palco. Ma l'arte deve avere il suo nutrimento. Prego? L'arte ha bisogno di nutrimento. No, guardi, abbia pazienza, ma quale nutrimento? Quelli si preoccupavano solo della pasta e fagioli. No, lasci perdere. Ah, pasta e fagioli col cocomero, simpatica ed ardito accostamento. Prima la pasta e fagioli e dopo il cocomero, non si sono preoccupati se ci azzeccasse o non ci azzeccasse. Non gliene fregava niente, andavano lì, dice: dove sei stato? Ho partecipato al Premio Strega. Com'era? Una meraviglia. Che è una meraviglia? Il buffet è offerto. No, mi creda, io sono un professore universitario. Io mi creda, di questo intellettualismo di bassissimo profilo l'Italia ne ha piene le scatole, almeno io personalmente. Qui di intellettualità non ce n'è traccia. Molti si spacciano per tali, occhialetti, c'è l'abito dell'intellettuale. Ah, su quelli sono esperti tuttissimi. Descriva com'è l'abito dell'intellettuale. Com'è dal suo punto di vista, sì. Dipende, guardi, nella storia di questo paese l'intellettuale... Lei cosa insegna, professore? Io insegno... No, non voglio essere identificato. No, ma lo dica. No. Ma lo dica. No, io sto a Roma perché se parlo qualcuno mi sente e mi identifica. Ma tanto male. Ma almeno la disciplina, una disciplina umanistica. No, scientifica. Applicazioni tecniche, cos'è? Non mi stuzzichi, non glielo dirò mai, perché non posso, non voglio essere. Fisica quantistica. Molti mi conoscono per la mia verve. Le posso garantire che in realtà, ecco, l'abito, nel passato c'era il Nobel, poi c'è stato l'Eschimo, poi c'è stata la borsa quella di stracci, poi ci sono stati i capelli, poi c'è molto l'occhialetto. E oggi? Le Clark e via discorrendo, e oggi abbiamo altri, diciamo, sono altri tipi di strutturazioni, sono facilmente identificabili. Esattamente l'abito che ha un clochard che incontro tutte le mattine sotto gli alberi davanti a Piazza Repubblica con il tavernello in mano, quindi deve rinnovare il suo punto di vista. No, non mi creda, qui si tratta poco di rinnovare, perché qui abbiamo la cultura italiana che è allo sfascio, abbiamo un sistema universitario che è un disastro, abbiamo una scuola che è innominabile, abbiamo i ragazzi che vengono, per i quali uno di uno ogni tanto può fare due, ma perché per molti docenti esiste questa drammatica realtà. Eh sì, perché a volte dipende, sai, in Italia c'è sempre il diritto d'opinione, quanto fa uno più uno? Dice, ma dipende dalla giornata, un e mezzo. Come non dare ragione al nostro professore indignato? Famosissima, ricercatissima, oggi la scoprirete proprio come opera d'arte. È l'artista che ha fatto di sé, della sua epidermide sottratta al tempo, un'opera d'arte mobile. Con me c'è Franca Kodik. Io sono una bomba a orologeria del sesso. Io voglio far scoppiare di piacere gli uomini. Anzi, quelli che adesso ci stanno guardando devono sentirsi eccitati, morire di piacere. Io li voglio vedere scoppiare di piacere al mio cospetto, perché io sono felice così, sono nata per questo, per il piacere. 800 24 0024, stiamo parlando delle occasioni culturali. Qua il professor Andrea Di Pré, un critico che esalta e parla come opera d'arte concettuale, opera di carne che sfugge all'insidia del tempo, una signora che racconta che in realtà lei ha come scopo precipuo, come opera d'arte vivente, quella di far scoppiare gli uomini di piacere. Ma ci sono infinite suggestioni, infinite occasioni di passare attraverso la catarsi della vacanza culturale. Marianna Aprile, che ho sentito all'inizio, che ho tenuto fino adesso in ascolto, e mi dispiace, ma abbiamo avuto un incessante bisogno di dare spazio a testimonianze importanti come quella del nostro professore, ahimè tristemente, crudamente stroncato nella sua invettiva dalla nostra motosega. Non trovi te che hai solcato l'Italia alla ricerca di paradisi, di piaceri innominabili, che adesso ci sia un desiderio diffuso veramente di purificazione, di catarsi, si ritorna all'antico intellettuale un po' stazionato, perché in fondo ci si è stufati di fare il VIP watching con la macchinetta davanti alle discoteche della Costa Smeralda? No. Cioè non ci vedo nulla di catartico, a parte il fatto che sono abitudini, manifestazioni e luoghi di incontro che esistono da tempo, ma in realtà sono espressione dello stesso autolesionismo che manda la famigliola a Porto Cervo a fotografare i famosi. Cioè, quando prima ascoltavo il vostro concorso, no, per partecipare come pubblico alla serata finale, vorresti andarci anche te, Marianna? No, ma cioè, il fatto che l'occasione, l'evento culturale più ambito dell'estate sia stare il 5 luglio al centro di Roma con una temperatura un caldo media di puttanesco, 40 una cosa terribile. Gradi in mezzo a personaggi con un'età media di, non so, 70-75 anni. Quindi già un po' putrefatti, volevo dire. Cosa? Già un po' putrefatti, quindi non... Sì, ma poi fare a botte per il buffet e scoprire che questo è, diciamo, l'evento clou dell'estate, da un po' di autolesionismo, lo stesso autolesionismo che porta la famigliola a Porto Cervo, come dicevamo prima, a guardare la Belen di turno o il Briatore di Straforo, e che porta per un contrappasso geografico e culturale gli abitanti di Porto Cervo a voler prendere di Porto Rotondo a voler prendere le distanze dai Porto Cervini e organizzare a Porto Rotondo il reading dell'autore di culto. Sono tutte declinazioni di un autolesionismo italico e di quella cosa orrenda che purtroppo bisogna riconoscere al nostro spirito nazionale, che è l'ansia da prossimità col famoso, che sia il famoso per il talento, che sia il famoso perché ha scritto il libro fortunato che ha venduto 100.000 copie. Non cambia radicalmente nel punto di vista dello spettatore. Non cambia nulla. Sentiamo un attimo un altro collega. Luca Mastrantonio è un giornalista, lavora nell'inserto alla lettura del Corriere della Sera. Luca Mastrantonio è un vecchio topo d'avvenimento culturale, ti ho visto ovunque. Nel formaggio, no? Così passo. Sei d'accordo con quello che dice Marianna Aprile, che in realtà lo spirito di chi frequenta queste cialtronate estive più o meno è lo stesso di chi vuol toccare qualcuno baciato dalla fortuna, della fama? Sì, ma forse c'è sempre questo sogno di osmosi o che un po' di un po' di shining si trasmette dal vincitore di turno all'avventore, però secondo me c'è anche molta, io quando penso allo Strega penso sempre al teatro all'italiana, che era caratterizzato dal fatto che il pubblico si vedeva ed era uno spettacolo nello spettacolo, quindi che piaccia o no è anche un momento, è una foto, è un'occasione anche di fotografarsi, di vedere gli anni che passano, ci sono per fortuna anche nuove leve, io incontro spesso anche molti coetanei. E chi sono gli emergenti? Noi abbiamo citato sempre i soliti classici. Gli emergenti, insomma, noi abbiamo avuto delle edizioni in cui ha vinto Paolo Giordano, è stato abbastanza clamoroso, un ragazzo che veniva da un altro pianeta, faceva il fisico. Insomma, poi il problema è che secondo me in Italia ci dimentichiamo anche di quando un meteorite ha cambiato un po' il clima. Positivo o negativo, Giordano poi ha portato anni di ricerca sfrenata dell'outsider esordiente. Forse bisogna ogni tanto accettare di recepire anche la novità. Io non sono così, il professore, secondo me, il professore che è intervenuto e si è celato poi dietro l'anonimato, incarna perfettamente l'intellettuale anti-festival, che però in realtà io non riesco a convincermi del contrario. Cioè, ambirebbe soltanto di essere lui sul piccolo podio della Proloquo a raccontare le sue cose. Esattamente quello. Il principio del festival sotto sotto è esattamente quello. Tutti ce la possono fare, come un reality show. Esatto, lo potevo fare anch'io dell'opera d'arte contemporanea, potevo vincere anch'io, ma sotto sotto se avessi studiato, avessi avuto più tempo. È questo che lo fa funzionare e tiene in una complicità, in un rapporto anche, diciamo, schiavo padrone, secondo me il protagonista del festival e chi vi assiste è contento. È contento perché ognuno ha e cova in cuor suo, nel suo cassetto più segreto, un libro, una raccolta di poesie, un qualcosa a poter raccontare al mondo e si illude. Se ce la fanno loro, forse potremmo farcela anche noi un domani. Grazie agli amici, ci sentiamo domani.